Oggi diamo inizio alla trasmissione Visionari di questo giovedì 17 settembre 2015 senza sigla perché abbiamo avuto un blackout, quindi siamo un po' correndo ai ripari. Però cominciamo e vi diciamo che la scaletta la trovate sul sito internet della radio ondarossa.info. alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Potete ascoltarci in streaming, in diretta, andando sul sito della radio, sull'home page ci ascolta la diretta. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, siamo in collegamento con Sandro Nardi, che è uno dei selezionatori di questa nona edizione del Salina Doc Fest, conflitti e periferie. Questo è il sottotitolo di questo, di questa edizione 2015. Ci sei, Sandro? Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao. Allora, ciao. Ci siamo sempre occupati del Salina Doc Fest. Quest'anno mi è parsa una selezione molto valida, di spessore internazionale. Raccontaci un po' di questa scelta. Allora, questa scelta nasce da un'idea di Giovanna Taviani, che è la nostra direttrice artistica, di fare una selezione di migliori film europei, diciamo, del 2014, cioè dell'anno passato. Poi con la collaborazione esterna di Federico Rossin, che è un lavora a Cinemadurel, che è un festival importantissimo a Parigi, un festival di documentari ovviamente, e in tanti altri festival in Europa, e Ludovica Fales, che è una producer, regista e rappresentante dell'EWA, che è il network delle registe donne europee. Hanno cominciato ad arrivarci molte proposte di film molto interessanti che avevano fatto altri festival in giro per l'Europa e che in Italia si conoscevano alcuni titoli, altri proprio non se ne sapeva praticamente nulla. Noi siamo, come sai, un festival piccolo al centro del Mediterraneo e abbiamo con piacere accolto questa sfida, diciamo, e abbiamo fatto una selezione di 9 film dove abbiamo inserito, oltre agli stranieri ovviamente, anche 3 film italiani molto interessanti su un tema ben preciso, che è il tema che abbiamo scelto quest'anno, che è conflitti e periferie. Sì. E se volete vi parlo brevemente dei film, o se no mi fai tu qualche domanda, dimmi tu. Beh, no, la panoramica generale l'hai un po' fatta, e rispetto, ecco, al tema scelto, per quello che ho visto, insomma, la tematica riguarda molto i migranti, le migrazioni di questi ultimi anni. Assolutamente. I film, diciamo, che come conflitti e periferie ovviamente sono due parole con cui abbiamo deciso di fare il festival, ovviamente, che sono possono essere interpretati in vari modi, però per noi ovviamente il conflitto oggi è il conflitto che deriva appunto da quello che sta succedendo nelle nostre città, quindi insomma, in generale in Italia come in tutta Europa. Quindi appunto questa paura dell'invasore, insomma, e quindi abbiamo voluto, attraverso la scelta appunto dei film, non dimostrare una tesi, perché non era nostra intenzione questa, ma far vedere persone che in giro per l'Europa e in Italia si sono occupate di questo problema, quindi il problema dei migranti principalmente, ma poi abbiamo anche film che se ne occupano marginalmente, per forza nel dettaglio della questione, ma però poi i film riportano ovviamente a quello. Abbiamo un film che è Memorie di Danilo Monte, che è un film che si è già visto in Italia al Festival di Torino e in altri festival, che però invece ha a che fare con un conflitto, per farvi un esempio, con il conflitto generazionale, quindi è la storia di un trentenne fratello del regista, con cui il regista fa un viaggio verso Auschwitz, infatti si chiama Memorie, un viaggio verso Auschwitz, in cui questo ragazzo che ha avuto dei problemi in passato parla della sua vita e del suo rapporto con con la storia, la sua storia e la storia poi d'Italia, insomma. Tra l'altro abbiamo ospitato il regista, quindi abbiamo avuto modo già di parlarne ad inizio estate, sì, proprio in vista. Ah, bene, bene. Bene. Senti, sì, dimmi. Vai, vai, stavi continuando, prego. No, no, stavo magari facendo una piccola carrellata di film. Oggi, per esempio, in programma, visto che siamo in diretta, magari posso dire qual è il programma di oggi, che è interessante. Abbiamo due film che sono due anteprime italiane, nel senso questi due film italiani non sono mai visti in nessun festival, e che sono Dose of Field Fire Burning di Morgan Neeb, che è un film che a noi è piaciuto moltissimo, ovviamente, è tutto girato con Steadicam e drone, per scelta ovvia, formale, ed è un film che parte dalla fiction, cioè c'è una scena iniziale in cui c'è un naufragio, chiaramente tutto visionario proprio da parte del regista, quindi ricostruito ovviamente, e poi c'è questa Steady che si muove in giro per una città del nord Europa e va a carpire diverse situazioni, situazioni che hanno a che fare ovviamente con i migranti, cioè difficoltà di vario genere. Un film meraviglioso che ha a che fare con le nostre scelte del documentario narrativo, appunto, proprio una storia raccontata per immagini, che però è assolutamente reale. Tutte le storie ovviamente che si vedono sono storie reali, però raccontate veramente in modo narrate, in modo eccelso, devo dire. E poi abbiamo un altro film, sempre in programma oggi, che si chiama Cosmos, di Ruben Desier, che è un regista belga molto giovane, che ha il suo primo film. Questo film Cosmos è la sua tesi all'Istituto di Belle Arti di Ghent, credo, adesso non ricordo nel dettaglio, ed è una storia anche quella di migranti, diretta, quindi mi sto un po' smentendo rispetto a prima. No, scherzo, non è così. Ed è ambientato appunto in un vecchio convento a Bruxelles, dove ci sono questi rumeni che hanno occupato una casa, e è molto delicato, molto bello, e alla fine praticamente il plot finale è che vengono sgomberati. Un altro film, devo dire, molto bello. Senti Sandro, in chiusura volevo chiederti il destino di questi lavori per il grande pubblico. Hanno qualche possibilità di passaggi televisivi, di distribuzione, di uscita in DVD? Allora, per esempio, parlo di un altro film, visto che mi parli di televisione, per esempio ieri pomeriggio abbiamo proiettato in concorso un altro film italiano, che è Romeo e Giulietta di Massimo Coppola, che è appena stato a Locarno, e che oltre a Locarno è passato su Rai 3, a Doc 3, il 5 agosto alle 23:45, forse addirittura mezzanotte, e quindi alcuni film ovviamente hanno la possibilità di essere distribuiti. Allora, in questo caso è stato fortunato Massimo, che il film è stato subito messo in onda. Altri film purtroppo non hanno queste occasioni, però ci tengo a sottolineare, per esempio, che due film che abbiamo in concorso verranno distribuiti all'inizio dell'anno prossimo, da una, non dico quali film perché sennò posso non voglio fare, però verranno distribuiti da un distributore molto molto coraggioso. Bene. Devo dire, perché i film sono veramente forti e molto importanti. Bene Sandro, allora ricordiamolo: Salina Doc Fest, nona edizione, Conflitti e Periferie, il sottotitolo di questa edizione 2015, dal 16 al 20 settembre. Tutte le informazioni le trovate sul sito del Salina Doc Fest. Io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te, ciao. Buona giornata a tutti. Ciao. Sandro Nardi, uno dei selezionatori dei documentari presentati a questa nona edizione del Salina Doc Fest. Allora, come dicevo, stiamo un po' navigando a vista dopo il blackout che ci ha messo fuori uso i computer. Siamo al secondo collegamento, questa volta con Elena Ratti di Nexo Digital, per parlare di un documentario uscito in sala dalla giornata del 15 fino ad oggi, su Amy Winehouse. Ci sei, Elena? Sì, ci sono, eccomi presente. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa e raccontaci un po' di questo lavoro. Allora, vi posso dire che non è stato facilissimo acquisire il contenuto, che dalla sua prima partecipazione ai festival internazionali è stato contesissimo e quindi l'offerta è stata parecchio alta e condivisa con i nostri co-distributori di Good Films, quindi Nexo Digital e Good Films sono partner in questa operazione e onestamente anche fortemente spinti dalla sottoscritta, che casualmente si trova a rilavorare con Amy Winehouse il film sulla sua vita dopo essere stata la sua discografica sull'album con cui ha venduto in Italia svariati centinaia di migliaia di copie. Quindi è stato come dire fortemente spinto dalla sottoscritta l'acquisizione e quindi l'offerta di questo per riuscire ad ottenere in distribuzione questo contenuto, e da qui con grande orgoglio potervi lavorare su un artista che a tutti gli effetti rimarrà negli annali della musica una delle più grandi artiste mai esistite, al pari di una Aretha Franklin, come è anche stato detto pubblicamente, ammesso da Tony Bennett dentro al film. Chi ha già visto lo noterà, o chi lo vedrà si renderà conto dell'entità del personaggio e del talento che era. Il film le rende quasi completamente giustizia, o forse completamente giustizia, non lo so, ci sono comunque, c'è sempre un quid insondabile di, come dire, parzialità in quello che dico, perché le sono molto vicina col cuore e ho seguito tutto il percorso della sua carriera e della sua vita, e rivedersela tutta in 2 ore poco più ieri è stato un bel colpo al cuore. Visto sul grande schermo il film fa un grandissimo effetto, è un film molto forte perché la sua vita è stata, come tutti sanno, costellata da dei momenti di grande abbandono, a partire dall'abbandono degli affetti del padre in fase infante, a poi ripetuti abbandoni, come dire, di uomini che non hanno saputo starle accanto e valorizzarla ed apprezzarla per quello che era. Anzi, tutt'altro, sono riusciti a portarla su una strada dalla quale più volte con il suo carattere è anche riuscita ad uscire, ma dopodiché la situazione era talmente compromessa fisica che la fine la conosciamo tutti e non è riuscita, insomma, ad arrivare oltre la famosa età dei 27, che è quella maledetta di tutti i grandi cantanti. Sì, nel cantanti, artisti, musicisti. Nel documentario tutti gli artisti che sono stati a contatto con lei le rendono onore, nel senso apprezzano tutti tanto la sua grande qualità di voce, ma soprattutto, ecco, questo forse è stato il quid rispetto al suo successo così folgorante e repentino, la sincerità e lo spessore in fase di composizione dei suoi brani. Assolutamente, lei scriveva, creava, cantava, suonava, tutto questo si evince in maniera mirabile nel film. Asif Kapadia, il regista, è riuscito a trasmettere completamente, anche con degli artifici, delle tecniche cinematografiche particolari, ma molto attente anche alla parte musicale, devo dire, proprio da discografica, a tutte quelle sfumature importanti, che sfumature non sono e che fanno di un disco un capolavoro. E in questo caso lei era assolutamente maestra, aveva una padronanza della sua vocalità, della voce, dell'attitudine, di tutto, fin quando poi non ha perso il controllo, non perdeva il controllo perché per le sue insicurezze si abbandonava ad altro, sì, agli eccessi dell'alcol, delle droghe, ma anche a vicinanze autodistruttive, insomma. Vicinanze, sì, causate da vicinanze. Ah no, scusa, non ho sentito, cosa hai detto? Anche per le frequentazioni, per le vicinanze, sto pensando per esempio al suo ultimo compagno, sì, che l'hanno portate penultimo, perché Blake è stato il penultimo compagno, ne è seguito un altro che compare nel film, che è meno noto, che è riuscito a farla uscire dal tunnel della droga, ma come ho detto la situazione era compromessa. Era compromessa, e comunque il problema di Amy è che aveva voleva essere amata, cioè era una carenza. La morte è stata un'unione di due cose: la bulimia, di cui si è poco parlato nel suo caso, che l'ha portata a diventare anoressica, e in ultimo, quando era uscita da tutte le droghe, si era rifugiata anche nell'alcol, e quindi comunque una dipendenza da altre persone per cercare una sicurezza che invece non aveva, e che quindi si rifugiava in questi palliativi devastanti. Senti Elena, volevo chiederti, una 3 giorni per l'uscita in sala, in quante sale? E oggi credo sia l'ultima delle allora, giornate. Sono quasi 300 sale, che è quasi un record per il tipo di distribuzione evento come quelle a cui Nexo Digital è abituata. Siamo oltre il 500.000 di box office, e il successo sta crescendo, cioè la performance è in crescita, quindi il passaparola ha confermato la bellezza di questo film, perché appunto molta più gente è andata nel secondo giorno che nel primo. Vediamo che cosa succede questa sera, non abbiamo metodi per verificare oggettivamente le prevendite, quindi lo sapremo domani. E da qualche tempo, in alcuni casi, quando i film vanno così bene, i cinema ce li chiedono anche in programmazione, e quindi esorto, se ce ne fosse qualcuno all'ascolto, di venire a chiedercelo per poterlo riprogrammare nelle proprie sale. Quindi questa sera è sicuramente l'ultima occasione per vederlo in tutta Italia. A partire da domani in qualche sala probabilmente sarà ancora disponibile. Comunque è importante vederlo sul grande schermo con quella concentrazione e quella attenzione che solamente il grande schermo riesce a dare ai film, valorizzandoli in tutta la loro pienezza. Elena, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille a te e buona visione a tutti. Buona visione. Grazie. Ciao. Elena Ratti di Nexo Digital per quanto riguarda il documentario su Amy Winehouse, uscito in sala il 15, cioè martedì, e in sala fino ad oggi, 3 giorni di proiezione evento. Dopo qualche anno ritroviamo con piacere Giuseppe Gaudino per parlare del suo film in uscita in sala oggi dopo la presentazione veneziana, Per amor vostro. Ci sei, Giuseppe? Ci sono, buongiorno a tutti, grazie dell'invito innanzitutto. Ricordo ancora, era stato qualche anno fa per questi stretti morire, un vostro documentario, perché non eri solo. Sì, esatto. Era su questo padre salesiano che aveva mappato e fotografato queste 4 etnie appena scomparse nel 1910 dalla Terra del Fuoco, e lui fece un film bellissimo. Sì. E questa volta invece lungometraggio di finzione e anche un premio a Venezia per l'interpretazione della protagonista Valeria Golino. Raccontaci un po', per chi ci ascolta, di che storia si tratta. La storia narra la consapevolezza di una donna che verso la fine dei 40 anni decide di non essere più una persona ignava, con colei che, come dice Dante, non prende posizione né nel bene né nel male, e il loro vivere in questo limbo, in questo senza tempo, senza dignità, mi fa vivere molto male. E Anna decide a un certo punto della sua vita, quando riesce ad avere un posto di lavoro, ad affrancarsi dal marito e da altre situazioni che lei non sospettava, o meglio non se ne accorgeva che c'erano. Lei è rimasta ignava per comodità, per convenienza, perché i problemi intanto si risolvevano, ma a un certo punto la propria coscienza chiede il suo conto, chiede il suo riscatto. E ad Anna raccontiamo la storia dell'ultimo mese e mezzo, quando decide di liberarsi di questa situazione del passato, ma sarà una lunga battaglia che la porterà poi alla salvezza, in effetti. Senti Giuseppe, ti faccio i complimenti, l'ho visto in presentazione stampa, per lo stile e per la visionarietà. Come nasce tutto questo progetto, Giuseppe? Nasce perché come per Giro, ma anche per Animali, che per questi senti morire, da un'emozione, da un sentimento. Volevo raccontare cosa significa, che cosa può provare una persona che vive in un luogo che non è degno di essere vissuto, l'ignavia, e volevo raccontare la sua storia. Credo che l'ignavia, noi siamo circondati, noi siamo forse a borderline, noi in molte cose siamo ignavi perché non prendiamo posizione, e volevo raccontare questo sentimento e raccontarlo attraverso questa invenzione di una storia inventata, originale, per testimoniare su che china possiamo incorrere se continuiamo a vivere senza prendere senza essere coerenti. Senti, come hai messo su tutta la squadra in questo progetto? Il grande lavoro è stato quello, con la sceneggiatura alla mano, è stato coinvolgere tante competenze produttive, da sì. Riccardo Scamarcio, a Gaetano Di Vaio, a Dario Formisano, a Viola Prestieri, alla stessa Valeria, a Giovanni Cottone, a Gianluca Corti e Eva Minerva, che sono entrati nel tempo e sono entrati al momento giusto, quando c'era bisogno di una cosa in più. Allo stesso anche il distributore, che è entrato nel momento particolare che ci ha permesso di chiudere il progetto. L'abbiamo fatto perché c'era tutti quanti all'inizio eravamo io, Gandri, e figli del Bronx, avevamo bisogno di raccontare a qualsiasi costo questa storia. E da lì poi è nata l'aggregazione, questo dal punto di vista produttivo. Dal punto di vista invece artistico, nel senso della scelta del cast, la scelta di tutti i protagonisti della storia, è un film corale, tutti sono stati molto intelligenti e hanno capito che erano, ognuno di loro, anche per una semplice sola posa, erano portatori d'acqua rispetto al personaggio di Anna, rispetto a quello che Valeria ha messo in scena, e sono stati tutti molto intelligenti a capire che era giusto raccontare una sfera femminile che non è molto ben raccontato, almeno è raccontata forse marginalmente. Una donna che si affranca, che riesce a avere il coraggio di dire no a delle cose, era, tutti quanti sentivamo questa necessità di raccontare questa storia, e quindi è coinciso nell'area qualcosa che c'era, e questa voglia di fare tutto a tutti i costi. Senti, la reazione del pubblico veneziano? Guarda, io sono stato presente, non lo diciamo ai miei produttori, a due proiezioni di nascosto, e ho percepito che erano veramente ancorate le poltrone. Ci sono stati dei momenti di disaccordo, perché forse hanno paura del sogno, hanno paura di poter avere la libertà di sognare, alcuni di essi, in una terza proiezione. Però li ho visti, ho capito che il film poteva agganciare le persone. Noi, per amor vostro, è anche un modo per dire per amor vostro del pubblico, per poter affabulare. Credo che sia stata una bella esperienza, e lo è tuttora in sala da ieri che siamo in sala. Ancora il pubblico partecipa, in certi momenti topici della storia sorridono, sobbalzano o sospendono il respiro. Credo che siamo riusciti a fare questa alchimia di avere una bella tensione, ma non per spaventare con effetti speciali ma proprio per aver agganciato, credo che abbiamo agganciato molti, agganciamo molte anime, sia con la musica, sia con la fotografia, sia col testo e sia con la bravura degli attori. Mm-hmm. Non è una storia, non racconto il mio bellicolo, non racconto una storia molto particolare, ma abbiamo cercato di essere più universali. C'è tanta memoria legata anche al repertorio musicale, che per noi cinquantenni ha significato qualcosa negli anni 60, e è un miscuglio, non ha lasciato libero nulla. Abbiamo usato tantissime piste sonore, tantissime qualità fotografiche, ma perché volevamo raccontare come strano e cosa può vivere in soggettiva una donna che vive in questo limbo dal quale vuole affrancarsi. Tutto è concorso a rendere questa sensazione. Senti Giuseppe, da oggi nelle sale quante copie per il tuo film? Usciamo con 57 copie. Mi sembra buono. E siamo contenti di questo numero. Bene, bene. Allora, è contemporaneo in tutta Italia. Bene. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Spero presto e spero di incantarvi, non deludere il meno possibile. Il meno possibile. Ciao Giuseppe. Grazie a voi dell'attenzione e buona visione. Ciao a tutti. Ciao, grazie Federico. Ciao. Siamo in collegamento telefonico con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso, che come struttura sta partecipando ad un bando. Ci sei Paco? Sì, pronto. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, intanto ben ritrovato, con te di tanto in tanto, spesso quasi regolarmente ogni mese ti sentiamo raccontare delle novità, e questa volta di questa partecipazione ad un bando. Spiegaci un po' meglio di cosa si tratta. Sì, esatto, in attesa della nuova stagione di progetti e documentari che accoglieremo, che comunque inizierà tra poco, tra qualche settimana. E in questa fase stiamo promuovendo questo progetto che si chiama Baumhaus, ed è un progetto che racchiude al suo interno realtà come Distribuzioni Dal Basso, ma anche altre realtà attive su Bologna, sia per quanto riguarda autoformazione, anche per percorsi di under 18 di recupero scolastico legati a progetti musicali, ma anche a progetti di natura filmica, come il nostro settore. E con questo progetto abbiamo appunto avuto l'opportunità di essere nei 40 semifinalisti del bando Che Fare, che è la terza edizione di quest'anno, che è un per chi non lo sapesse è comunque un importante bando di sostegno e di finanziamento a progetti culturali. Noi abbiamo costruito già, in realtà già da diversi mesi prima di questa opportunità, un progetto che sotto l'ombrello della filosofia open sourcing e delle creative common non solo andasse a rinforzare tutti quei meccanismi di produzione e distribuzione e di autoproduzione e di autodistribuzione che usiamo e che rivendichiamo, ma aprisse anche a percorsi di formazione per ragazzi e ragazze, quindi percorsi per under 18, sia rispetto appunto a produzioni indipendenti di tipo musicale che cinematografico, per creare appunto un unico aggregato polifunzionale che possa in qualche maniera coordinare tutti questi diversi flussi. Aggiungo inoltre che all'interno di questo rafforzamento noi stiamo ufficialmente adesso lavorando per aprire Distribuzioni Dal Basso su una scala internazionale, aprendo tutto il catalogo e tutto il funzionamento del sito in multilingua, e chiaramente questo bando potrà eventualmente, se riusciremo appunto ad arrivare al termine, aiutarci anche economicamente a sostenere questo passo fondamentale e gigantesco che stiamo cercando di fare, anche perché appunto siamo consapevoli che tutta una serie di parametri che ne usiamo, dal meccanismo di donazione all'utilizzo di licenze Creative Commons, sono tutti metodi e anche prospettive di immaginari che possono tranquillamente, anzi sono già ampiamente accolti anche in altre esperienze al di fuori dell'Italia. Quindi insomma, aprirci all'estero in questo momento per noi significa portare tutto il nostro catalogo su una scala più ampia, ma soprattutto iniziare ad aprire relazioni stabili anche con autori indipendenti che arrivino dall'estero. Per cui adesso c'è questa, come dicevo, questa campagna di voto popolare online sul sito www.che-fare.com, e il progetto Baumhaus è il numero 5 e c'è tutta la procedura guidata per poterlo sostenere. E qualora appunto si superi questa fase ulteriore di selezione attraverso il voto popolare, arriveremo eventualmente poi tra i 10 finalisti, che saranno invece valutati da una commissione interna che valuterà quali progetti sostenere anche con questo finanziamento e quali no. Per cui ecco, sono pochi, cioè votare ci si mette veramente pochi minuti a sostenere con il voto popolare online il progetto. Se il progetto vi può interessare e piacere, ovviamente sulla scheda del progetto, la numero 5, ci sono anche tutti i dettagli che vanno un po' più in profondità rispetto a questa breve presentazione che vi ho fatto. E insomma, per noi questa potrebbe essere davvero una grande opportunità di aprire ulteriormente tutta una serie di meccanismi virtuosi che in questi anni abbiamo cercato di coltivare. Bene Paco, allora io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Volentierissimo. Ciao, un abbraccio. Grazie, a presto a voi. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso per la partecipazione al bando Che Fare 3. Ecco noi Daniele Biacchessi, ci sei Daniele? Ci sono, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ci siamo sentiti più volte, però in ambito radioteatro, questa volta in ambito cinema con Visionari, per quanto riguarda un progetto di crowdfunding. Daniele, raccontaci un po' di cosa si tratta. Dunque, io il 7 aprile ho fatto uscire un libro che si chiama I carnefici per sperle nei cofre, e è la storia di un nonno, che poi è mio nonno, che in una notte di fine estate di molti anni fa racconta ad un nipote, cioè Carlo, che poi sono io, la storia delle stragi nazifasciste del 44 e della profonda ingiustizia dopo il ritrovamento nel 1994 del cosiddetto armadio della vergogna, così venne definito dal giornalista dell'Espresso Franco Giusto Lisi. Fu il PM militare Intelisano, se non sbaglio. Nel senso che diciamo, a me interessava compiere un passo un po' in avanti su queste storie, diciamo, che erroneamente vengono definite storie del passato e che invece sono, come sapete, storie purtroppo del presente. Raccontare cioè questo gruppo di carnefici, di assassini, di criminali della 16ª divisione Panzergranate Reichsführer, che arriva in Italia nel 1943, viene portata poi in Corsica, dove subito dopo l'8 settembre viene massacrata di fatto dal nostro esercito, cioè da una parte del nostro esercito e dai francesi. Quindi poi è riportata in Italia, rimandata in varie parti d'Europa per addestramento, e poi riportata a Cecina, dove nella battaglia di Cecina questa divisione Panzergranate viene decimata. I superstiti, che sono circa 4.000, a quel punto, secondo i dettami di Adolf Hitler, non sono più idonei alla guerra guerreggiata, diciamo quella vera, con eserciti e posizioni, ma vengono presi, portati a Canova in provincia di Lucca, dove il generale Max Paulsen li addestra per la strage contro innocenti, contro i civili. Civili, donne, vecchi, bambini. E da lì inizia questa lunga marcia. Il nonno Giuseppe, in questa notte di fine estate a Mazzabotto, a Montesole, dove effettivamente poi io ho origine, perché tutta la mia famiglia è di lì, e quindi diciamo da quel momento è un lungo racconto di questa storia che viene compiuta ovviamente per non dimenticare, una sorta di lascito che il nonno fa al nipote, è una memoria quindi che passa attraverso generazioni. Questo libro poi è diventato uno spettacolo che realizzo dal vivo o in versione solista o accompagnato da Giulio Peranzoni, che uno, a mio avviso, dei più importanti illustratori, certamente il più importante per quanto riguarda la cosiddetta tecnica LDP, cioè live dry painting, il disegno dal vivo a quadro. Ogni quadro teatrale viene disegnato dal vivo da Giulio. È uno spettacolo nello spettacolo, perché c'è il mio racconto, ci sono le mie parole, nello stesso tempo ci sono questi disegni incredibili, molto importanti, molto belli, molto forti. Dopo una, ormai non le conto più, siamo circa una cinquantina da presentazioni, reading e spettacoli, abbiamo deciso di a dedicare il primo disegno animato eseguito con la tecnica LDP, e pensando soprattutto ai ragazzi, agli studenti, ai loro professori, ai genitori, per un passaggio di testimonianza. Adesso il racconto si presta bene a questo tipo di lavoro, quindi ci sarà la mia voce narrante, i disegni live, come se fosse proprio un live. Buona la prima, non ci sono grandi, diciamo, c'è sicuramente un grande editing, ma la proprio è la tecnica che permette di realizzare qualcosa di molto caldo e di non così enormemente perfezionista. Sì. È qualcosa che nessuno ha mai fatto nel nostro paese, cioè non è. È un'operazione nuova, e proprio perché è un'operazione nuova, esattamente come ho fatto per il DVD di Giovanni Enori, con la storia di Giovanni Pesce e di Onorina Brambilla, che qui appunto abbiamo realizzato un docufilm tratto dallo spettacolo, che ha varcato l'obiettivo arrivando quasi a sfiorare il 200% di raccoltafondi. Senti Daniele, ci lasci i riferimenti internet per partecipare alla campagna di crowdfunding? Per partecipare è un discorso molto semplice, dovete andare su www.bcrowdy.com, che è la piattaforma culturale nata a Parma da un gruppo di giovani molto molto molto bravi, e che aveva già inaugurato l'importantissima campagna di crowdfunding per il disco dei Gang Sangue e Cenere. Dal 21 di settembre potete versare da un minimo di 10 euro per il download digitale a 20 euro per il DVD, e poi ci sono varie altre ricompense. Naturalmente c'è anche il libro dei Carnefici, per chi dalle parole e le immagini del DVD vuole poi approfondire ciò che è accaduto nel 1944 in Italia, e raccontarlo soprattutto e regalarlo, anzi soprattutto, ai propri figli, ai propri nipoti, agli studenti, ai ragazzi che nulla sanno di queste cose, ma non per colpa loro. È diciamo un'idea no profit per mandare avanti una memoria viva, per farla passare ancora una volta di generazione in generazione. Una memoria. Questo sia una delle idee per realizzare operazioni di memoria di oggi. Una memoria che non va in prescrizione. Daniele, assolutamente sì. Daniele, io ti ringrazio, ti abbraccio, grazie, ci sentiamo per le prossime novità. Grazie a voi, grazie. A presto, ciao. Daniele Biacchessi per quanto riguarda il progetto DVD I Colpevoli. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Dario Bonazzelli per I Wonder Pictures per parlarci di un documentario che ci parla di crisi, che ci parla di Grecia, ma non solo, perché è una storia che sembra proprio un film, vero Dario? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. È una storia che è un film, sicuramente è un documentario. Il titolo originale è The Forecaster. E per rendere più l'idea di cosa ci aspetta, in Italia abbiamo deciso di chiamarlo Il Teorema della Crisi. Il teorema della crisi, la motivazione è semplice. L'anima del film è una previsione economica fatta da Martin Armstrong, un consulente finanziario internazionale, per il quale dice che la crisi del debito nei paesi avrà una sterzata, avrà una fase di crisi, appunto, che inizia proprio dal 1 ottobre del 2015. Prepariamoci. Allora, lui intanto è stato vittima di un sopruso giuridico ed è stato in carcere per anni negli Stati Uniti senza che ci siano state prove a suo carico. Nonostante questo, lui le ragioni di questa lunga detenzione vanno ricercate nella formula che lui ha escogitato attraverso i suoi studi sulla numismatica, sì, e sulla storia economica dei paesi, quindi un lungo processo storico che lo ha portato a sviluppare un teorema matematico con l'utilizzo anche del pi greco per quanto riguarda i cicli e le crisi e i ritorni di queste crisi che hanno una cadenza fissa nel tempo. Sembra un'assurdità, ma poi si scopre che le sue previsioni colgono sempre nel segno ed è ascoltato un po' ovunque nel mondo. Molte autorità vogliono i suoi segreti ed è finito male proprio per questo. Esatto, di fatto dire che è finito male insomma è un po' esagerato, sì, nel senso Martin Armstrong l'ha pagata cara, però insomma l'ha pagata cara certamente, scontando 15 anni di galera per un'accusa per il quale lui ha poi patteggiato e in parte ammesso, un'accusa attraverso la quale lo accusavano di aver fatto una truffa attraverso il famoso modello dello schema di Ponzi, ma il film lascia anche aperto, insomma, un po' l'interpretazione della cosa, anche se i fatti sono assodati, proprio perché Martin Armstrong è un personaggio abbastanza singolare. Il titolo del film è, infatti, The Forecaster, significa proprio l'indovino, insomma, è un personaggio un po' che riesce a compiere queste previsioni attraverso il modello che anche tu ci descrivevi, e questo ha suscitato degli interessi ovviamente politici, economici, anche geopolitici, non solo americani, che possono aver avuto, diciamo, una influenza nel suo percorso di vita, e quindi portarlo a questa accusa che lo ha portato appunto al carcere. Ciò non toglie che il giudizio sulla sua figura rimane sospeso. Quel che è certo è che quelle previsioni che lui ha fatto in passato si sono rivelate per la maggior parte dei casi corrette. Sì. Questo è fonte di parte di timore e di attenzione che ci è sembrato ovviamente giusto portare nelle sale, portare al cinema e dare rilievo in questa fase. Rispetto alla sua figura e il giudizio sulla sua figura, vale la pena sottolineare il fatto che lui in tutto questo non l'ha mai fatto per arricchirsi, perché non gli interessava questo, e non ha mai ceduto il suo segreto perché sapeva che gli altri avrebbero tratto profitto sulle sue teorie in maniera sporca. E per quanto riguarda le verità che lui con il suo sistema ha dimostrato, si sanno di fondo, però vederle dimostrate attraverso la matematica fa un po' impressione, è che ormai i governi sono gestiti dalle grandi banche, che tutto il costrutto del debito di Stato è una grande frode, perché poi gli Stati non ottemperano mai ai propri doveri rispetto al debito. Lui certo. Ricorda nel documentario che il solo caso è stata la Romania nel 1980, per dirne una, e poi che ogni conflitto ha delle profonde ragioni economiche, insomma cose che si sanno ma dimostrate matematicamente e fanno un'altra impressione. Esattamente, esattamente. Sono previsioni che scandisce all'ordine del giorno, quindi è una precisione anche quella matematica sul momento in cui appunto l'inizio di queste fasi di crisi. E come dicevi in precedenza, queste accurate valutazioni vengono frutto da delle analisi che hanno a che fare con i movimenti, i flussi finanziari dei capitali mondiali, ma anche appunto l'applicazione di modelli matematici che coinvolgono sicuramente il teorema del pi greco. Ecco, in particolare la prossima crisi prevista ha inizio proprio dal primo di ottobre, ed è una crisi che insomma non è definita nei suoi contorni, però quel che ha detto è che di qui al 2020 sarà una fase certamente di difficoltà e di recessione. Senti Dario, da oggi nelle sale che tipo di distribuzione? Sì, dimmi. Sì, volevo proprio arrivare a questo per invitare insomma tutti a partecipare. Il film ha una circuitazione, come dire, a macchia di leopardo. Oggi si trova, da oggi, a Roma al Cinema dei Piccoli tutti i giorni, questo è l'inizio, per poi portarlo anche in tante altre sale. C'è allo stesso modo a Genova, a Milano allo stesso tempo, e anche a Belluno in questa settimana, e soprattutto il 30 di settembre faremo un evento del film all'interno dei cinema UCI Cinemas. A questo punto ci lasci i riferimenti internet di I Wonder Pictures per saperne di più sul calendario? Assolutamente sì, seguiteci soprattutto sulla nostra pagina Facebook, che è sempre aggiornata, corretta, con tutte le informazioni, novità e quant'altro e curiosità sul film e su tutti gli altri film che stiamo portando nelle sale in questo periodo. Dario, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio a voi, grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per l'uscita del documentario sulla crisi. Eccoci con il regista Piero Messina per parlare del suo lavoro, L'attesa, in uscita in sala oggi giovedì 17 settembre 2015. Piero, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto, grazie. Sono appena arrivato, sono all'aeroporto, sono vicino, sono appena atterrato da Toronto. Da Toronto. Un po' stanco. Senti, allora ci racconti un po', allora per chi ci ascolta diamo qualche indicazione di trama. Sì, il film, non vorrei dire molto sulla trama, proprio perché c'è anche degli sviluppi che è meglio non conoscere. Eh beh, certo. Film, però tendenzialmente la storia di due donne che aspettano dentro questa villa un po' fuori dal mondo il ritorno della persona che entrambe amano. Più i giorni passano, più questa persona non torna. Tutto il film poi è giocato su questo mistero sul mistero di questa persona che sembra non tornare, e abbiamo costruito il film cercando di creare il confronto tra queste due persone, tra queste due declinazioni di un amore, l'amore materno e l'amore di un amante. Sì, tendenzialmente sulla trama preferisco non sbilanciarmi, certo, perché certo. Il film esce oggi, quindi preferirei che lo spettatore andasse senza saper molto. Bene, come nel mio caso, perché purtroppo non ho avuto modo di vederlo, ho avuto per quel poco che sono riuscito a quelle poche immagini che sono riuscito a vedere, sicuramente mi incuriosiva sia la storia di per sé che l'eleganza formale con cui l'hai resa. E volevo chiederti, Piero, come è nato questo progetto? Ma il progetto è nato, innanzitutto è figlio di una lunga maturazione, nel senso che nasce da uno spunto che anni fa un amico mio mi raccontò una storia realmente accaduta, e poi sì, mi ha quel film di una persona che aveva subito un lutto molto doloroso e che il giorno successivo al funerale aveva deciso di non parlare con le persone che le stavano accanto del fatto, dell'accaduto, quasi negando l'esistenza della morte, in quel caso del figlio. E questa cosa mi colpì molto, però non ho subito pensato di farne un film. L'idea del film è nata nel momento in cui pensare a questo racconto, a questo aneddoto, mi ha risvegliato alcune immagini che appartengono un po' ai ricordi della mia infanzia, che sono legate a delle processioni pasquali che sono anche molto violente. Mi ricordavo questi volti trasfigurati dalla commozione di tante persone che di fronte a un simulacro, di fronte a una statua di legno si commuovono, e inizialmente abbiamo iniziato a scrivere proprio quasi per cercare di capire il perché queste due cose secondo me dovevano stare insieme. E forse la cosa che poi ho capito scrivendo, che nel film mi auguro ci sia, è il fatto che quello che accade nella processione è quello che accade ai personaggi del film. Cioè, nel momento in cui 10.000 persone nello stesso momento credono insieme a una cosa, cioè che un pezzo di legno in realtà è qualcos'altro, quella cosa diventa plausibile. La stessa cosa nel film accade, che queste due donne, nonostante il film inizi con un funerale, quindi con una con un dato di fatto di realtà abbastanza dichiarato, però nonostante questo, nel momento in cui loro decidono insieme di credere a un'altra cosa, a un'altra verità, quella verità nel momento in cui è condivisa diventa una verità plausibile e diventa una verità. Senti, visto che, considerato che non ci eravamo sentiti finora nella nostra trasmissione Visionari, per chi ci ascolta, ci racconti un po' del tuo percorso cinematografico? Sì, io il percorso cinematografico ho iniziato a fare praticamente cortometraggi da molto giovane, a 16 anni ho fatto il mio primo cortometraggio, e poi da quel momento in poi non ho più smesso, nel senso che ogni anno ho fatto un corto come media, e poi ho fatto il centro sperimentale, mi ha dato la possibilità di girare moltissimo, di esercitarmi molto e di girare anche alcuni cortometraggi produttivamente più importanti rispetto ai miei precedenti. E poi con un cortometraggio, col diploma, andai in Cinefondazione a Cannes, quella cosa lì fu importante perché mi ha potuto creare anche una rete di relazioni, un'attenzione che poi ho sfruttato nel momento in cui ho iniziato a scrivere il film. Parallelamente al centro sperimentale ho lavorato con Paolo Sorrentino per il film, ho fatto il suo assistente per gli Smart Day Flash, La Grande Bellezza, che Paolo l'ho conosciuto però in maniera un po' strana, perché io quando avevo 18 anni avevo il mio primo cortometraggio un po' più strutturato, che era al Festival di Taormina, e lui era in giuria e vide il corto, di capo moltissimo, tant'è che poi mi premiò, e da quel momento in poi scambiati i contatti, siamo rimasti siamo tenuti sempre in contatto fin quando fu di Smart Video Place mi diede la possibilità di andare con lui. Però diciamo che il percorso è un po' articolato in tante cose, cioè sì. Il cortometraggio, il centro sperimentale, la gavetta sul set. Posso dire che la cosa più importante però per me oggi è stato quello di poter girare tanto, di poter girare tanti cortometraggi, di poter sbagliare, di fare anche cose bruttissime. Questa ci ho pensato in questi giorni mentre ero un po' in viaggio per i festival, e sì, posso dire anche con molta certezza rispetto a quello che è il mio percorso, che è la cosa che poi trovo sia stata determinante, è aver avuto la possibilità di girare molto. Bene, da oggi nelle sale quante copie per il tuo film? Sono 150. Bella uscita. Sì, è una bella uscita, sono molto fiducioso, devo dire. Innanzitutto siamo stati a Toronto in questi giorni, dove abbiamo avuto delle produzioni anche col pubblico. La cosa che mi ha fatto veramente piacere è vedere che alla fine, poi al netto di tutto quello che si possa dire sul film, vedere il pubblico commosso dopo la proiezione è stata una grande gioia per me. Quindi ora che il film andrà finalmente in sala, al di là dei festival, per me adesso questo è il momento più importante in cui voglio, spero che il film possa arrivare al pubblico oltre che ai festival, dove già sta un po' girando abbastanza. Bene, Piero, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a te, invito tutti le persone che ci ascoltano a vedere il film, soprattutto il primo weekend, che è il momento più importante, senza entrare in tecnicismi. Grazie a te e spero di sentirti presto. Bene, alla prossima. Ciao Piero. Ciao. Piero Messina, regista del film L'Attesa, in uscita oggi, giovedì 17 settembre. E in linea c'è Alessandra Bruno, regista del documentario Stato Interessante, in programmazione questa sera per Doc 3. Alessandra, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, ciao. Allora, raccontaci un po' di questo documentario che ho avuto modo di vedere e quindi so di cosa stiamo parlando, ma chi ci ascolta non lo sa, per cui raccontacelo tu. Allora, dunque, è un documentario che racconta la storia di cinque donne intorno ai 40 anni che non hanno ancora figli, che non sono ancora diventate madri, non lo sono ancora, non lo saranno mai. Insomma, diciamo che racconta proprio il momento in cui queste domande diventano impellenti e non si può più rimandare, perché il tempo passa, perché l'orologio biologico, qualunque cosa esso sia, comincia a diventare pressante, e quindi insomma non è più possibile procrastinare questa scelta, in un certo senso. Senti, come viene fuori quest'idea? Come viene fuori? Viene fuori dalla mia esperienza, dal fatto che io sono coetanea delle donne che poi sono le protagoniste del film e che mi sono trovata io in questo stato, più o meno interessante nel mio caso, però insomma mi sono trovata in questa situazione e mi è sembrato che insomma questa cosa portasse con sé una serie di questioni importanti che meritavano di essere raccontate e che prescindono totalmente dalla maternità. Sì, infatti lo spunto e anche l'elemento portante del documentario, secondo me, è questo ragionare e anche interrogarsi, quasi un dialogo con chi lo vede. Sì. Sì, è così, è un dialogo con me idealmente e con chi lo vede, cioè con me realmente con chi insomma vedrà il film, indubbiamente. Senti, come hai deciso di approcciare e filmare queste donne che si sono aperte? Ma sono partita dalle amiche, naturalmente, perché insomma è stato molto breve il passo per rendermi conto che non ero l'unica in questa situazione, e quindi sono partita dalle amiche, poi dalle amiche delle amiche, poi ho aperto una pagina Facebook e la voce insomma si è sparsa molto rapidamente, sono state molte donne a contattarmi, a voler parlare di questa cosa. Poi ovviamente è un discorso, una questione che poi ne porta con sé moltissime altre, e questo è anche l'aspetto, diciamo, che più mi ha affascinato di questa mia ricerca. Però diciamo che ho dovuto tenere molto il fuoco su quello che volevo raccontare, e quindi c'è stata poi una scelta che poi insomma è stata anche molto dettata dal tipo di rapporto che io ho creato con queste persone, che era fondamentale per poter raccontare queste le cose che volevo raccontare. Senti, rispetto all'idea che ti eri prefissata e poi lo sviluppo anche con l'interazione che hai sviluppato con loro, ha cambiato un po' la tua prospettiva? Hai scoperto anche cose che non immaginavi? Ma sì, ho scoperto moltissime cose, ho scoperto molte cose su di me, molte cose in generale. Scoperto su di me ha agito in modo paradossalmente opposto, nel senso, tanto più io entravo nella faccenda, tanto più me ne occupavo e la svisceravo, tanto più mi allontanavo dalla questione, e insomma sono riuscita piano piano a vedermi sempre più da fuori, e questo mi ha molto aiutato. E in realtà poi ho scoperto invece nel confronto, ho scoperto molte cose, ho scoperto soprattutto quanto la maternità spesso molto spesso è un pretesto a quest'età, cioè porsi queste domande diventa poi il là per tutta una serie di altre questioni che interrogano te stessa, che interrogano il tuo modo di stare al mondo e quello che ti aspetti da te e vuoi da te in generale. Senti, rispetto ecco a queste esperienze, queste cinque esperienze che hai avuto modo di ascoltare e far parlare, ci sono dei tratti comuni rispetto a questa scelta ritardata della maternità? Ma guarda, le storie sono molto diverse, ci sono cinque motivi molto diversi per i quali questa scelta non è stata fatta, non è stata ancora fatta, poi insomma, però sicuramente in comune c'è una certa inconsapevolezza, c'è una certa inconsapevolezza non rispetto al proprio desiderio, seppure conflittuale, seppure contraddittorio, una certa inconsapevolezza rispetto al tempo, e quindi rispetto a quanto tempo c'è ancora per rimanere in questo stallo. Ecco, questo è un tratto comune un po' a tutte, cioè sembra che il tempo sia infinito e che in realtà non si ha proprio la netta percezione di quanto non lo sia per niente. In tutto questo che ruolo giocano le pressioni esterne? Ma non per tutte, devo dire che insomma ci sono donne molto diverse, alcune vivono la cosa in modo molto autonomo e quindi del tutto incondizionato, mentre invece per altre sono molto forti i condizionamenti, ma sono forti soprattutto perché sono fonte di ulteriore confusione, e cioè non aiutano, non sono neanche pressioni che spingono da una parte o dall'altra, sono solo fattori di ulteriore confusione, cioè in una fase in cui non si riesce ad individuare se stessi, che cosa si vuole, che cosa si desidera, le certezze degli altri sono piuttosto fastidiose. Senti, quest'oggi un passaggio nella televisione del servizio pubblico su Doc 3, e che ne sarà poi di questo lavoro per il pubblico che oggi non può vederlo o che vorrà rivederlo? Ma noi poi ovviamente lo manderemo a festival e cercheremo insomma di avviarlo su questo percorso, e per il momento questo poi sarà visibile ovviamente sul sito della RAI di Doc 3, e poi vedremo. Bene Alessandra, allora un abbraccio, ricordiamo anche l'orario per il... Sì. Ahimè, 23:40 Rai 3. Sì. Io ti abbraccio, magari ci grazie. Sentiamo presto. Certo, lo spero. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bene, era Alessandra Bruno per quanto riguarda Stato Interessante, il documentario in programmazione oggi per quanto riguarda Doc 3. Con questo chiudiamo i contatti, i collegamenti per la trasmissione di quest'oggi. Visionari torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15.